in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani, con qualche escursione sulle prime pagine di alcuni quotidiani europei. Oggi veramente ho trovato tantissimi articoli interessanti, spero di aver fatto una selezione soddisfacente e spero che abbiate tempo da dedicare un po' alla lettura. Il Sole 24 Ore apre sulla questione del fisco perché purtroppo, come spesso succede in Europa, come spesso succede in Italia, le nostre norme fiscali non sono chiare fino alla fine. E infatti c'è un decreto di rinvio fino a lunedì 21 agosto che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta e quindi di fatto non si può cominciare a studiarlo, non si può capire se quelle saranno le norme definitive. Da qui il titolo del Sole 24 Ore con un commento di Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, intitolato Il solito copione una volta di più, e il titolo principale è Fisco per i pagamenti, il giallo della proroga. Da professionisti e imprese sono attesi 22,6 miliardi. Adesso io naturalmente, essendo poi, ho lavorato tutta la vita a reddito fisso, non dico di essere contenta di pagare le tasse, ma credo che siano necessarie. Però che oltre alla pressione fiscale che abbiamo in Italia si debba anche subire questo tipo di vessazioni e di incertezze è la beffa oltre il danno, potremmo dire. In ogni caso vedremo come si evolve la questione, naturalmente sul Sole 24 Ore lo seguiremo nei prossimi giorni. Un altro tema che stiamo seguendo con molta cura, perché il dato italiano è una triste eccezione europea, è quello della disoccupazione giovanile e anche dei cosiddetti NEET, cioè i giovani che non lavorano e non cercano lavoro e non studiano. E quindi un approfondimento da uno studio della Fondazione Visentini di Giorgio Santilli, che poi trovate a pagina 3, e il commento anche qui di un vice direttore del Sole, Alberto Orioli, i tre shock che servono per appunto dare una scossa al mondo dell'occupazione, soprattutto a quello dell'occupazione giovanile: cuneo fiscale, apprendistato e poi naturalmente la scuola. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore un'inchiesta che in realtà è in due puntate, quindi questa è la prima, di Leopoldo Benacchio, che è un esperto, un divulgatore scientifico, e ci spiega, avevamo visto qualcosa nei giorni scorsi, che cosa sta succedendo sopra di noi, perché se ormai sappiamo che per esempio negli oceani, gli oceani sono intasati dalle plastiche che naturalmente noi esseri umani abbiamo gettato sciaguratamente nel mare, nelle acque, i cieli sono invece intasati di satelliti. Ne servono anche di nuovi, ne servono di nuova generazione, ma bisognerebbe anche cercare di eliminare quelli vecchi. È tutto quindi un business che ruota intorno a questa economia satellitare. Ci fermiamo però un attimo per la pausa, per la prima pausa sul traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì. Abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore, quella del Corriere della Sera, come molti giornali, si concentra sulle ultime notizie di cronaca di ieri sulla questione dell'immigrazione, l'immigrazione clandestina in particolare dalla Libia, perché abbiamo sentito la posizione dei vescovi espressa dal presidente della CEI, che dice le ONG devono firmare, secondo noi devono firmare il codice, quello che il famoso codice per le ONG introdotto dal ministro Minniti, quello che per esempio Medici Senza Frontiere non ha ancora voluto firmare. E poi tra l'altro c'è anche la novità dalla Libia, che tutto sommato, senza naturalmente dire avevate ragione o lo facciamo, a sua volta ha messo delle regole agli interventi delle ONG a 100 km dalla sua costa. In prima pagina, e se ne occupa Gian Antonio Stella, la storia tristissima che avete sentito anche nel GR, nel sindaco di Licata, che è stato sfiduciato dalla sua stessa giunta, ed è evidente, Licata vicino ad Agrigento in Sicilia, ed è evidente che è successo perché si opponeva all'abusivismo edilizio. E vi segnalo però oggi anche, non lo leggo spesso, ma oggi mi sembra molto divertente, perché no, divertente ma anche molto serio per quanto riguarda la questione che tratta, che è quella del lavoro non pagato degli stagisti. Io credo fermamente che qualsiasi tipo di lavoro, anche uno stage, dove ovviamente uno soprattutto fa esperienza, ma non è giusto che non si venga pagati, è un tema che è di attualità in qualsiasi paese occidentale. Si è scoperto che persino la super figlia, la super first daughter, cioè la figlia preferita di Donald Trump, Ivanka Trump, che ha un'azienda che si occupa soprattutto di abbigliamento, non paga i suoi stagisti. E allora il caffè di Massimo Gramellini: Ivanka non paga. Trumpiani di baita e di ombrellone, ultime notizie dalla Casa Bionda. La cara Ivanka, figlia prediletta dell'Atomico, nella sua azienda di moda ama fare lavorare gratis le persone, comprese quelle a cui richiede competenze qualificate. Non lo fa per mancanza di soldi, che l'azienda non è mai andata tanto bene, ma per una questione di principio. Pagare la gente che sgobba per la sua gloria le pare brutto, una caduta di stile, una mancanza di riguardo verso il lavoratore, la cui sensibilità verrebbe gravemente offesa dal semplice sospetto di essere destinatario di un bonifico. Così almeno viene vissuta l'esplosione di stagisti e tirocinanti un po' in tutta l'America, e il pensiero va allo staff squattrinato dell'ipnotizzatrice di surgelati Hillary Clinton. Perché aggiungo appunto, soprattutto durante la campagna elettorale di Hillary Clinton si era scoperto che i suoi stagisti venivano pagati pochissimo. Tra l'altro è un brutto segnale secondo me, perché negli anni scorsi in realtà gli Stati Uniti facevano abbastanza eccezione, e gli stagisti venivano pagati, era considerata una cosa buona e giusta pagare gli stagisti. Ma finisco di leggere Gramellini. Poiché ormai dagli americani abbiamo importato qualsiasi cosa, persino gli uragani, la pratica del lavoro gratuito si è diffusa anche da noi, benché permanga qualche concessione al sentimentalismo sotto forma di rimborso dei pasti. Una ex dipendente di Ivanka ha rivelato a Forbes, un magazine quindicinale americano, il mantra aziendale: la miglior paga che possiamo offrirti è la magnifica esperienza. In attesa di un mondo in cui le rate della macchina si pagano con le magnifiche esperienze e il mutuo della casa con quelle così così, rimane in sospeso una domanda. Ma gli americani del ceto medio non avevano scelto il papà di Ivanka proprio per contrastare un capitalismo impazzito che consente a pochi ricchi come Ivanka di esserlo sempre di più, pagando gli altri sempre di meno, addirittura nulla? Sono stati fregati. Vabbè, tutta esperienza. La Repubblica titola sulla questione dell'immigrazione clandestina, ma con un taglio diverso, sulla nave italiana Tripoli, perché Vincenzo Nigro, un giornalista della Repubblica, è appunto andato a vedere, a sperimentare di persona che cosa significa stare lì nel Mediterraneo o su una nave osservando da vicino sia l'arrivo delle navi dei trafficanti di uomini, sia quello delle navi delle ONG, sia naturalmente quello della Guardia Costiera italiana o di altre navi della Marina Militare italiana e anche di quella libica che sono lì in zona. Poi in prima pagina c'è la vicenda del sindaco di Licata, veramente intitolata La sfiducia dopo le ruspe, e poi c'è richiamata un'intervista molto interessante di Sergio Rizzo, che era l'ex sodale di Gian Antonio Stella quando erano entrambi al Corriere. Sergio Rizzo è passato a Repubblica e continua a occuparsi di temi economici, di questioni molto legate al malfunzionamento del nostro paese. In questa intervista al ministro dello sviluppo economico Calenda parlano un po' di tutto, anche naturalmente della questione aperta di Fincantieri, che sapete sono stati hanno lanciato un'offerta per acquistare i cantieri francesi. Macron, questo è successo prima delle elezioni presidenziali, Macron si oppone a questo passaggio dei cantieri francesi sotto il controllo di Fincantieri, l'azienda italiana, e quindi su questo è titolata l'intervista. Poi all'interno si parla anche di molti altri argomenti. Le mosse di Macron sui cantieri mi ricordano Berlusconi, un po' criptico come titolo, comunque poi l'intervista è a pagina 6. Il Messaggero invece si concentra sulle novità sul contratto per gli statali. Polizia e militari, ecco gli aumenti. In media, spiega il Messaggero, ci saranno 200 euro in più. Gli incrementi maggiori sono per i pompieri. La fotonotizia però è stata scattata su una spiaggia, una spiaggia nel sud della Spagna, dove si vede chiaramente che stanno sbarcando clandestinamente alcune persone. E il titolo però fa riferimento a quello che abbiamo detto, la presa di posizione di ieri dei vescovi italiani, svolta dai vescovi sulle ONG, c'è una legge, niente aiuti agli scafisti. Il Messaggero continua a seguire anche la vicenda dell'ATAC, l'azienda dei trasporti municipali di Roma, in profondissima crisi, come abbiamo visto anche ieri. Adesso addirittura arriva anche una stangata dell'antitrust, perché ci sono talmente tanti ritardi e talmente tante corse cancellate a Roma che è scattata una multa da 3,6 milioni. In particolare le tratte più difficili, con il maggior numero di disservizi, sono la Roma-Lido e la Roma-Viterbo. La Stampa invece, una prima pagina così un po' da, come posso dire, pensiero laterale, ve lo segnalo spesso, la Stampa sta cercando questa strada, tenendo conto del fatto che tutti sentiamo la cronaca ai telegiornali, alla radio, su internet, e quindi la Stampa spesso fa degli approfondimenti suoi. Per esempio, oggi si concentra sulla burocrazia, che è un male atavico italiano. Costi alti e burocrazia frenano l'azione dei volontari italiani. In molti casi, infatti, ma credo che più o meno ne abbiamo sentito parlare tutti, o magari lo abbiamo sperimentato in prima persona, la buona volontà non basta, perché poi, pur avendo magari una buona idea per avviare una qualche azione di volontariato, poi ci si scontra con la burocrazia. Un caso su tutti, è molto recente, la legge sulla limitazione degli sprechi alimentari, ma era difficilissimo per i negozi o anche le rosticerie riciclare, per esempio, o anche regalare il cibo avanzato o in scadenza, perché appunto bloccati da leggi e burocrazia. La fotonotizia però è bellissima, è un grande squalo, perché oddio, ho visto tra l'altro che mi sembra su un canale di Sky, adesso non ricordo, però tra poco ci sarà tutta una carrellata dei film sullo squalo. Questo animale che vive nel suo habitat e che viene indicato di volta in volta come assassino, come mangiatore di uomini. Ora però c'è questo, secondo la Stampa, ma è una notazione che ho visto anche su altri giornali, da altri osservatori di quello che passa al cinema o in televisione: il fascino del predatore, torna di moda lo squalo. E poi vi segnalo, perché veramente, a parte grazie agli ascoltatori, tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, non tutti hanno apprezzato l'articolo di Massimo Gramellini e si chiedono se al Corriere della Sera, il giornale per cui lavora Gramellini, vengono pagati gli stagisti. Francamente non lo so. Un altro ascoltatore dice: non sapeva Gramellini che in America camerieri sono pagati con le mance. A parte che non è esattamente così, hanno uno stipendio di base in generale, e poi le mance sono molto importanti. Sappiamo che negli Stati Uniti chiunque si stupisce se non si lascia almeno il 10% di mancia, perché quella è una sorta di integrativo normale per i camerieri. Ma cosa c'entrano i camerieri con l'articolo di Gramellini? Non lo so. Comunque, grazie lo stesso a tutti gli ascoltatori che stanno mandando o SMS o WhatsApp al 349-238-6666. Ma vi dicevo, da pagina 3 della Stampa, perché avete sentito anche nei GR come sia stata immediata la reazione del ministro Minniti alla strage che c'è stata in Puglia, e anche come siano già state prese delle misure che, se consideriamo come si è comportato Minniti da quando è diventato ministro dell'interno sulla questione dell'immigrazione, non sarebbe ingeneroso pensare che siano solo promesse. Ha annunciato delle misure e, visto appunto il suo recente comportamento, possiamo aspettarci che le metta in atto. E quindi vi leggo la Iena, che è quella piccola rubrica che c'è sempre a pagina 3 della Stampa, e si intitola Prima, tre righe. Come si chiamava il ministro dell'interno prima di Minniti? Perché in effetti anche ieri, sentendo le dichiarazioni di Minniti, capendo che questa emergenza, questa situazione della Puglia non è certo una novità, uno si chiede, ma fino a ieri, fino a l'altro ieri, e la cosa secondo me ancora più inquietante è che Angelino Alfano, che è stato ministro degli interni prima di Minniti e che aveva appunto avuto un percorso molto diverso da quello che sta avendo Minniti su un tema così importante come l'immigrazione, adesso è ago della bilancia, così lo definiscono i retroscena politici dei giornali, sia nel primo test elettorale importante al quale andiamo incontro, quello delle regioni siciliane il 5 di novembre, sia nelle elezioni nazionali, perché sappiamo che in questo momento c'è un governo che comprende anche il partito di Alfano e potrebbe, pur con i suoi numeri piccoli, essere appunto l'ago della bilancia. Avvenire, come ci si può aspettare, titola sulle dichiarazioni di Bassetti, presidente della CEI. L'Avvenire è il giornale della CEI e il titolo esatto è Bassetti 2: coi profughi e contro l'illegalità. E poi questo riferimento nel sommario all'altra notizia che viene dalla Libia: la Libia chiude lo spazio alle navi delle ONG. In prima pagina però anche un triste anniversario, che è quello degli ultimi 10 anni di governo, tra virgolette, di Hamas, in particolare nella striscia di Gaza. C'è un bilancio molto, appunto, tristissimo. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi sul Washington Post, sul New York Times, che si parlava di questa generazione perduta di giovani palestinesi, in particolare quelli che abitano nella striscia di Gaza, i 10 anni che hanno portato Gaza al disastro, poca elettricità, sanità al collasso. Nell'estate del 2007 la striscia di Gaza fu attraversata dalla lunga e sanguinosa cavalcata del movimento di resistenza islamica, che in poche settimane prese il potere nell'enclave palestinese, dopo una resa dei conti senza esclusione di colpi fra i sostenitori del gruppo e quelli rivali di Al-Fatah. L'anniversario è triste, il bilancio è tragico. Oggi il contesto socio-economico in cui versano quasi 2 milioni di palestinesi è peggiorato rovinosamente. La quotidianità dei Gazawi, i più colpiti dalla paralisi del processo di pace israelo-palestinese, è caratterizzata da continue restrizioni. Gazawi, cioè coloro che abitano nella striscia di Gaza. Nella striscia scarseggiano cibo, medicine, acqua potabile, elettricità, quando c'è per 2 ore al giorno. Ci lasciamo un attimo però per una breve pausa. In primo piano. Rieccoci, ancora buon venerdì da Giulia Crivelli. All'ascoltatore che dice che non perdo occasione per attaccare MSF, Medici Senza Frontiere, primo, non mi sembra di averli attaccati, ho solo detto che il codice per le ONG non è stato firmato da Medici Senza Frontiere. E poi per la cronaca, perché così spero almeno di chiarire la questione una volta per tutte, io sono da anni sostenitrice di Medici Senza Frontiere, credo che facciano un lavoro egregio in Africa. Non riesco a capire, per quanto mi sia sforzata, il perché di questo rifiuto a firmare questo codice di condotta delle ONG. Tutto qua. La verità ha un titolo completamente diverso, un'inchiesta molto interessante sui mutui. Sapete che per anni abbiamo avuto dei tassi bassissimi e ancora adesso lo sono, però finirà questo quantitative easing e quindi si comincia a pensare, è giusto per chi soprattutto o ha già un mutuo o lo deve fare, anche perché sapete che con le norme sulla surroga si può anche cambiare banca, come muoversi appunto quando i tassi si a loro volta muoveranno. E da qui il titolo della verità: risalgono i tassi, 40 mutui per salvarsi, e a pagina 2 trovate appunto questa classifica. La fotonotizia però è legata all'intervista che poi trovate a pagina 4, fatta da Luca Telese, che sarà presto parte della squadra qui di Radio 24 da settembre, come la maggior parte di voi credo già sappiano. Il titolo dell'intervista è dell'intervista al ministro Orlando, il ministro della giustizia: il PD sbaglia la linea, meglio perdere che stare con il cavaliere. Un'intervista surreale, secondo me, per le cose che dice Orlando, non tanto per le domande di Telese, di cui poi magari vi leggerò un paio di domande. Il Giorno cavalca la vicenda di Gianluca Vacchi, Tra l'altro ieri ho dato per curiosità un'occhiata su internet, effettivamente sia su Facebook che su tutti gli altri social su cui è presente Vacchi, c'è un attivismo incredibile su questa vicenda. Io spero che c'entri anche il fatto che è estate, perché sennò davvero mi sembra un'attenzione, al di là del divertimento che si può avere osservando i comportamenti e l'evoluzione di questo signore, spero che appunto sia solo una cosa estiva. Il giorno che abbiamo visto 2 giorni fa era stato il primo a dare la notizia che, poiché Gianluca Vacchi non sta rimborsando un prestito, la banca che gli aveva erogato questo prestito ha cominciato a pignorargli una serie di beni per un totale di una cifra non proprio trascurabile, 10 milioni di euro. Ieri se ne sono occupati tutti, oggi se ne occupa anche il Corriere della Sera con una pagina intera che fa proprio i conti in tasca e l'organico societario degli interessi economici di Vacchi, e lui invece ha deciso di dare questa intervista al Giorno, che trovate le pagine 2 e 3, e si dice pronto a pagare, che è un po' tutto un contenzioso che andrà sistemato con le banche, ma che non ha intenzione appunto di non onorare il suo debito. Libero, interessante, perché il titolo è questo: ora, cari italiani, pagate le porcate di Roma e Napoli. Il problema è che appunto queste due città sono vicine alla bancarotta. La cosa che mi ha un po' sorpreso, da una parte positivamente e dall'altra un po' meno, è che uno dei due articoli di Giuliano Zulin fa riferimento al lungo articolo che abbiamo citato ieri di Paolo Bricco sul Sole 24 Ore su Detroit, su come la città era di fatto morta, poi è resuscitata, non abbandonando la sua vocazione di capitale americana dell'industria automobilistica, ma rinnovandosi, anche aggiungendo altre forme di sviluppo. E l'articolo di Giuliano Zulini inizia così: ieri il Sole 24 Ore ha evidenziato in prima pagina una storia positiva. Detroit, l'ex capitale mondiale dei motori, è rinata. E poi riassume quello che Paolo Bricco ci raccontava ieri. Forse mettere il nome dell'autore sarebbe stato corretto, insomma, non è questione neanche di regola giornalistica, ma di correttezza in generale. In ogni caso, l'articolo è quello che ieri abbiamo citato di Paolo Bricco sul Sole 24 Ore. Il Giornale, e così accontento l'ascoltatore che dice che adesso si aspetta che io parli male anche della Boldrini. No, non ne voglio parlare male, cito soltanto l'articolo sul Giornale che ci racconta le vacanze del nostro presidente della Camera, che a spese nostre va in vacanza a Castel Porziano, una delle residenze in dotazione al Quirinale. E il titolo, vabbè, è molto polemico del Giornale, ma la sostanza è questa: che Laura Boldrini è andata in vacanza nella tenuta amata dal Duce, perché appunto Mussolini pare amasse molto Castel Porziano. Il titolo principale però è dedicato all'immigrazione: sinistra, scafisti, poteri forti, le carte segrete sulle ONG. E poi questo sommario che non è molto corretto secondo me, perché i vescovi scaricano Avvenire e scelgono Minniti. Come avete visto, Avvenire ha dato ampio spazio alle dichiarazioni del presidente della CEI, Avvenire non si è mai schierato contro il codice delle ONG, ha sempre cercato di spiegare che ci sono ONG come Medici Senza Frontiere, che hanno sempre fatto un lavoro egregio, che quasi certamente continueranno a farlo, ma che bisognava capire quali erano le loro ragioni nel dire di no alla firma di questo codice per le ONG. Il Fatto Quotidiano ha un'inchiesta completamente diversa in prima pagina, che riguarda la fondazione Open, che è la cosiddetta cassaforte di Matteo Renzi, e i due giornalisti del Fatto, poi trovate tutto a pagina 2, sono proprio andati a spulciare questi dati per capire da dove arrivano questi finanziamenti a Matteo Renzi. Per esempio hanno dato dei contributi Vincenzo Norato, l'armatore di Mobilines, ma anche Campari, insomma c'è tutto per chi vuole dilettarsi con queste, perché poi la legge prevede appunto che ci sia trasparenza da quando non c'è più, almeno sulla carta, il finanziamento pubblico ai partiti, prevede che ci sia trasparenza sulle donazioni ai partiti o alle fondazioni legate ai partiti. Il foglio, come sempre interessante secondo me, e soprattutto, lo dico sempre, molto curato nella scrittura, difficile trovare un refuso sul foglio, e secondo me già questa è una cosa molto positiva. È interessante l'articolo di Salvini, interessante, divertente, ma anche qui sono sempre sorrisi amari, ma è forse anche molto facile sempre criticare o fare dell'ironia, però a volte se poi magari dopo l'ironia viene anche un po' di riflessione, può essere comunque utile. Salvatore Merlo, che ironicamente sicuramente sa scrivere, ma non solo, si dedica a Matteo Salvini. Partendo da quella dichiarazione, così accontento fino in fondo l'ascoltatore che ha mandato il messaggio dicendo che si aspettava che io avrei presto parlato anche della Boldrini, l'ho fatto. E di Matteo Salvini e di Saviano, scusatemi. Ecco, l'articolo di Salvatore Merlo si intitola «Il nuovo miracolo del Cavaliere, mollare Salvini». Inizia così. Dice che quando andrà al governo toglierà la scorta a Roberto Saviano, in riferimento appunto a Matteo Salvini, che gli sta antipatico. Quindi, soddisfatto della sparata, va a farsi un selfie in discoteca al Papete a Milano, dove si sbronzano i ragazzotti del Giambellino, e lo pubblica su Facebook. Insomma, un po' un... però ripeto, partendo sempre da fatti veri, da parole vere, Salvatore Merlo ribadisce, perché lo abbiamo anche sentito molte volte nelle settimane scorse, la riluttanza di Berlusconi ad allearsi con la Lega o con una Lega che usa i toni del suo attuale segretario Salvini, e appunto vengono ripercorse alcune frasi un po' forti, diciamo così, pronunciate appunto da Salvini, come quella sulla scorta a Saviano, che poi tra l'altro ha subito risposto. Vedi, già da questa tua affermazione si vede quanto sei così impreciso, perché in realtà non è il governo, anche se tu diventassi premier e quindi capo del prossimo governo, non è il governo che decide sulle scorte. Guardiamo un attimo prima della pausa magari le prime pagine di alcuni quotidiani europei. La Frankfurt si riconcentra sulla questione delle alleanze nei vari Länder in vista delle elezioni che ci saranno in settembre. Tutti i giornali danno conto di questa perdita di qualche punto nei sondaggi di Angela Merkel, e molti la legano anche al Dieselgate, cioè a tutto quello scandalo che è iniziato con lo scandalo appunto legato alle centraline, ai dati delle centraline diesel truccate soprattutto da parte della Volkswagen, ma poi si è scoperto che in realtà in Germania probabilmente da molti anni c'è un cartello tra le case automobilistiche. Tutto questo si intreccia con la politica, perché in alcuni Länder come la Bassa Sassonia ci sono delle partecipazioni, per esempio in quel caso nella Volkswagen, e quindi questo potrebbe essere una delle ragioni per le quali Angela Merkel, benché continui a staccare di molti punti il rivale della SPD Martin Schulz, ha perso qualche punto, e quindi è anche un argomento sulla prima pagina della Frankfurt, che però si dedica anche a un'altra questione, e che mi ricordo avevamo citato in una rassegna stampa internazionale di qualche settimana fa. In Germania si ha diritto d'asilo da paesi appunto che per i quali è giustificato chiedere il diritto d'asilo, se però a un certo punto in quel paese il governo, il ministero degli interni tedesco o il ministero degli esteri decide dopo un attento esame che non ci sono più le ragioni per prolungare il diritto d'asilo perché il paese è diventato più sicuro, coloro che avevano avuto il diritto d'asilo vengono rimandati indietro. Sta succedendo con gli immigrati che venivano, i profughi possiamo chiamarli, che avevano ottenuto il diritto d'asilo, che venivano dall'Afghanistan. Adesso, secondo appunto le prime valutazioni, l'Afghanistan sarebbe un paese un po' più sicuro, temo che sia tutto da dimostrare, e quindi la Germania comincia a rimandare indietro le persone che erano arrivate dall'Afghanistan. Un approfondimento anche su di noi, non proprio lusinghiero, su di noi italiani, nella pagina di politica: Ein Land im Dauerstreik, cioè un paese in eterno sciopero. Ai tedeschi, ma giustamente anche a tantissime altre persone, fa effetto la quantità di scioperi che continua a esserci nel nostro paese, specie nei servizi pubblici. Le Figaro si concentra sulla questione della lite tra Corea del Nord e Donald Trump. Tra l'altro l'avete sentito, ieri ha rincarato la dose, ha detto: mi hanno addirittura accusato di essere stato troppo duro, parlando di fuoco e fiamme, di una reazione che il mondo non aveva mai visto, forse non lo sono stato abbastanza. E secondo Le Figaro sarebbe sempre più vicino questo piano della Corea del Nord per attaccare l'isola di Guam, dove sappiamo c'è una base americana importante. Il Guardian, stessa scelta sulla Nord Corea e sul fatto che Trump ha ramps up, cioè ha addirittura ingigantito le sue minacce. Fire and fury wasn't tough enough. Fuoco e furia non erano abbastanza dure. Queste sono parole di Trump di ieri. Davvero sembra, insomma, i giornali stranieri sembrano prendere molto più, forse, sul serio, a giudicare almeno dai titoli in prima pagina, questa guerra per ora solo di parole tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Tanto che anche il Washington Post ha tre articoli in prima pagina su questa questione, tra l'altro anche con uno schema molto interessante che fa capire, a seconda della gittata dei missili che potrebbero essere usati, dove potrebbe colpire la Corea del Nord. Ultimissima segnalazione prima della pausa sul traffico, invece quella di El País, anche in questo caso titolo principale dedicato a Trump, e poi un fatto di cronaca che purtroppo ce ne ricorda uno ugualmente triste, successo di recente a Saronno vicino a Varese. Anche in Spagna c'è questo caso vicino a Madrid di un'infermiera che avrebbe ucciso con dei farmaci un paziente che comunque era molto malato, ma ha deciso di... Così ha preso questa iniziativa di praticare questa eutanasia, e pare però, dopo che sono iniziate le indagini, che questo sia soltanto un altro caso, che ci siano altri casi sospetti a partire dal 2015, sempre legati a questa infermiera. Ci lasciamo un attimo per l'ultima pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi. Naturalmente non sono tutti messaggi incoraggianti, ma pazienza, grazie a tutti lo stesso, li leggo tutti con attenzione. E all'ascoltatore in particolare che mi chiede qual è il quotidiano tedesco che cito nella rassegna stampa del mattino, è la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è il quotidiano di Francoforte, considerato forse il più autorevole della Germania. Forse anche un po' serioso, però sicuramente, appunto, è sempre interessante da scorrere. Vi dicevo, sulle pagine del Sole 24 Ore trovate l'approfondimento sui nostri giovani, sulle generazioni più giovani e sui problemi di disoccupazione giovanile che l'Italia ha, più grandi della maggior parte dei paesi europei, tutto a pagina 3. A pagina 7 un interessante approfondimento sul Venezuela, di cui oggi così, come sempre, a intermittenza se ne parla. Sole 24 Ore ha due approfondimenti: da una parte il ruolo che sta avendo la Russia nella crisi venezuelana, che è civile, culturale, sociale, ma anche economica, e sarebbe intervenuto direttamente Mosca per allontanare questo default. Come? Prestando a PDVSA, che è un colosso energetico venezuelano, questo prestito viene fatto da un altro colosso energetico russo controllato dal Cremlino, che è la Rosneft. Pensate, un prestito di 6 miliardi di dollari. E poi invece Nicola Borzi, un giornalista super esperto di finanza e non solo, racconta invece la questione dei bond venezuelani. Ieri mi spiegava che potrebbe essere qualcosa di vagamente simile a quello che era successo in Argentina. Caracas spaventa i risparmiatori, sell off sui bond. Nelle ultime 10 sedute sono stati scambiati in Italia oltre 135 milioni di titoli su prezzi in picchiata. Comunque domani su Plus, che è il settimanale dedicato soprattutto alla finanza e al risparmio, ci sono anche altri approfondimenti sui bond venezuelani e su altri temi. Vi dicevo invece il primo dei due articoli sulla economia dei satelliti, la trovate a pagina 9 di Leopoldo Benacchio, sempre del Sole 24 Ore, la decima puntata dell'agenda del professionista dedicata a magazzini e merci a pagina 16. E poi passiamo Corriere della Sera, vi dicevo, questa vicenda del sindaco di Licata raccontata da Gian Antonio Stella a pagina 9. Stop alle ruspe, rimosso questo eroe per caso, perché purtroppo appunto in Italia un sindaco che voglia, come ha sempre detto lui, semplicemente far rispettare le leggi diventa un eroe. E poi, a proposito di Brexit, che anche qui appena troviamo un appiglio ne parliamo, perché sappiamo che è una questione aperta che ci coinvolge direttamente, un po' perché nel Regno Unito vivono molti italiani, un po' perché l'Italia è legata anche economicamente al Regno Unito come tutti i paesi dell'Europa, e poi perché sicuramente ha fatto effetto, credo abbia fatto effetto a tutti questo referendum, questo esito del referendum del 23 giugno 2016, con il quale la maggioranza, seppur una maggioranza così grande, però di maggioranza si tratta, e in democrazia la maggioranza decide, la maggioranza degli abitanti del Regno Unito ha deciso che il paese deve uscire dall'Unione Europea. E allora, per esempio, ci racconta Luigi Offeddu, cavo sottomarino tra Irlanda e Francia per aggirare Londra dopo la Brexit, energia e dati lungo 600 km di fibra. Per il progetto l'Unione Europea ha stanziato già 4 milioni. Vi dicevo, per chi fosse interessato a questa saga, a questa storia di Gianluca Vacchi, tra l'altro ho visto che anche sul Foglio se ne occuperanno domani con un titolo anticipato, Il Cazzaro, storia del Cazzaro, Gianluca Vacchi, bitume, finanza e debiti, ecco tutti gli affari di Vacchi. Se ne occupa appunto Mario Gerevini, che è un giornalista economico del Corriere della Sera, e spiega da dove vengono i vari proventi di Gianluca Vacchi. Molto divertente questo articolo invece di Elena Tebano, che è andata al Mult, sede di un centro di ricerca dell'IKEA in Svezia, dove si stanno studiando i mobili IKEA di nuova generazione, IKEA senza bulloni. Le nuove idee, montaggi facili e, attenzione, polpette, non più le mitiche polpette dell'IKEA, ma polpette agli insetti, perché forse vi è capitato di leggere qualche articolo su questa evoluzione che potrebbe esserci di farine di insetti, cibi a base di insetti e altre piacevolezze simili. La Repubblica continua la sua inchiesta sulle ONG, inchiesta nel senso di spiegarci che cosa fanno le varie ONG. Questa settimana si occupa in particolare di Oxfam e di Emergency. Mi viene in mente Alessandro, che saluto, Alessandro Milan, e tra l'altro molti ascoltatori o lo salutano o lo rimpiangono o mi chiedono appunto quando tornerà, e naturalmente in settembre con il nuovo palinsesto. E lui parla sempre delle settimane che sono sempre decisive per l'abolizione delle province, le province sono sempre lì. E adesso il dossier di Repubblica a pagina 11 ci racconta: scuole a rischio, strade al collasso, le province non hanno più soldi. Sono senza manutenzione 5.000 istituti che appunto erano sotto la responsabilità delle province, 75.000 chilometri in dissesto, addirittura chiusi. Gli effetti della mancata applicazione della riforma del Rio. Questa è una storia stupenda, su Repubblica, un racconto dalla transumanza, dagli alpeggi dei pastori di Rigopiano. Ce la racconta Donatella Di Pietrantonio, che tra l'altro è nata ad Arista e vive a Penne in Abruzzo, e ha anche scritto un libro, L'Arminuta, che è stato finalista al Premio Campello, e ci racconta appunto questo suo viaggio, alpeggi, picnic e piccoli locali, viaggio nella montagna che si ripopola dopo la tragedia. Naturalmente il riferimento è alla tragedia che è successa il 18 gennaio di quest'anno, quando una slavina partita dal Monte Siella ha travolto appunto l'hotel Rigopiano in Abruzzo e sono morte 29 persone. Ma è arrivata l'estate e comunque appunto la natura locale rivive, ce la racconta una persona che quei luoghi li conosce molto bene. Questa è veramente una notizia da mani sul volante, e non so, io non ho più parole per quello che succede in Sicilia. Sappiamo, siamo molto vicini alle elezioni, e allora ecco qua: Sicilia, blitz all'ARS, cioè l'Assemblea Regionale Siciliana, quel Parlamento tutto tutto particolare della Sicilia, che è una regione a statuto speciale, tornano le province e mega ufficio stampa all'ultimo minuto, prima delle vacanze, il via libera al DDL per ripristinare elezione diretta e rimborsi ai consiglieri. Riecco anche l'apparato Monster sulla comunicazione con 20 addetti, che era stato smantellato dal governatore Crocetta, che mi risulta sia ancora governatore, quindi evidentemente così ha chiuso un occhio tutti e due. Al momento del voto in aula solo la metà dei deputati, la riforma passa con 32 sì su 47. Trovate tutto, per chi ha lo stomaco di leggere questa cosa, a pagina 8 del Messaggero. E la stampa invece si occupa dei 100 giorni di Macron, così per convenzione si parla sempre di questi primi 100 giorni di un presidente o di un primo ministro in carica, per vedere che cosa fa, ma anche come aumenta, come resta stabile, come diminuisce il suo gradimento. Leonardo Martinelli, che tra l'altro gli ascoltatori di Radio 24 sicuramente riconoscono come voce, ha lavorato a lungo per il nostro gruppo, poi appunto adesso è stabilmente a Parigi. Il titolo: i primi 100 giorni di Macron, l'europeista poco solidale, contestato in patria, sul piano internazionale riesce ad affermarsi, ma la vera sfida sarà sul lavoro, che è una delle grandi riforme di cui la Francia ha bisogno. Dall'Avvenire vi segnalo invece, forse tra l'altro domani ci sarà il Serpente Corallo, la trasmissione con Mauro Meazza, che si occupa anche di truffe online e di truffe in generale ai danni dei risparmiatori. L'Avvenire spiega: boom di truffe online, pensate, più 48% in 6 anni. È una ricerca fatta da DAS e Generali. Milano è la maglia nera, si registra una denuncia ogni 297 abitanti. Dal Fatto Quotidiano un approfondimento sui malfunzionamenti del 112, il numero per le emergenze sanitarie, di cui tra l'altro vi segnalo parlerà anche Roberta Giordano in Ma cos'è quest'estate, subito dopo il GR delle 8. Da nord a sud il numero unico manca in Toscana, Campania e in gran parte della Puglia, e quando è operativo va a rilento, e speriamo naturalmente che sia solo una questione di ingranare queste nuove norme, non che sia un malservizio destinato a restare. Visto che abbiamo parlato di Sicilia, facciamoci del male una seconda volta. A pagina 9 del giornale, la Sicilia è in rosso. 3 comuni su 4 sono a rischio default. Ritardi nell'ok ai bilanci 2016 e la difesa della regione, la difesa dei comuni è colpa dei mancati trasferimenti della regione. Sono 455 milioni di euro che la giunta Crocetta avrebbe dovuto girare agli enti locali e non ha girato, e sono 264 i comuni che non hanno presentato i rendiconti delle spese 2016 e quindi sono già a rischio commissariamento. Un'ultimissima notizia triste, tristissima, a pagina 18 e 19 del giornale: i giorni del cane, la mattanza in cucina indigna il mondo. In Corea, infatti, ce lo racconta Osvaldo Spadaro, che è andato proprio in Corea, a Seul, per Corea del Sud in questo caso, per raccontare questa vicenda. L'antica tradizione di mangiare la carne di cane divide il paese e fa gridare l'Occidente contro le barbarie. È un mercato enorme che porta al macello 2,5 milioni di animali, di cani. E poi, allora, concludiamo con una piccola nota positiva, sempre sul giornale, invece a pagina 27, una pet therapy molto particolare, che è quella dei lupi, che servono a curare i traumi di guerra. Qui vengono indicati come i veterani, noi dobbiamo dire reduci in italiano, 7 veterani e 7 animali in una riserva, una ricetta che restituisce la serenità a chi l'ha perduta in battaglia. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, appuntamento a domani verso le 8 e non le 7, ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.